Le ragioni sono legate al fatto che la morte di Moussa Balde di fatto non ha stupito nessuno tra coloro che lavorano all'interno del CPR e che si occupano della difesa delle persone che sono trattenute. Non ha stupito perché le condizioni di trattenimento sono pessime, lo sono ormai da tantissimo tempo, gli episodi anche gravi sono seguiti nel corso degli ultimi mesi e parliamo di violazioni di diritto, al di là di valutazioni che possono essere fatte sul piano etico, sul piano morale, cioè si tratta di violazioni di legge importanti. I fragili in un contesto del genere rischiano di crollare miseramente e di non avere il supporto necessario. Ovviamente nessuno può entrare nella mente di queste ragazze e capire le ragioni e la tragedia di queste occupazioni perché sono estremamente intime, però sicuramente si può dire che il fatto che sia stato trattenuto già di per sé è discutibile perché si trattava di una persona offesa in un procedimento di una certa rilevanza perché i reati che erano stati commessi nei suoi confronti erano obiettivamente gravi, ma si è data la precedenza al fatto che fosse regolare sul territorio piuttosto che alla possibilità di tutelarlo adeguatamente e di consentirgli una difesa, oltre al fatto che era un testimone in quello stesso procedimento. Quindi si tratta di una concatenazione di eventi già sbagliata in partenza, cioè il fatto che lui ci sia arrivato al CPR. E una volta il CPR, che sia stato convalidato il suo trattenimento, che poi sia stato inserito nell'ospedaletto, comunque in isolamento, in condizioni non compatibili, secondo chi l'ha difeso, l'avvocato Gianluca Vitale, con il suo stato. Ecco, voi appunto nel comunicato dettagliate proprio anche queste violazioni. Queste strutture hanno anche proprio dei seminterrati dove vengono rinchiuse queste persone. Poco si sa però, perché molte cose vengono fatte in maniera non ufficiale, cioè mancando le garanzie che sono invece previste per i detenuti all'interno delle carceri, è anche difficile poter intervenire a tutela di queste persone. Non c'è trasparenza. Non c'è possibilità di impugnazione o di contestazione se non limiti piuttosto contenuti, limiti piuttosto contenuti. E anche qui viene in evidenza un ulteriore problema importante. Qui si tratta di detenzione amministrativa. Perché amministrativa? Perché si basa non sulla consumazione di reati, ma sulla situazione, sul territorio di queste persone, sull'irregolarità di queste persone all'interno del territorio. Non si tratta di un trattenimento di una detenzione legata a reati, questo è bene specificarlo. Ma anche se è una detenzione amministrativa, è pur sempre una detenzione. I competenti a decidere su questa detenzione sono ordinariamente i giudici di pace, che non hanno competenze in materia di libertà personale in nessun altro caso. E questo è un problema, perché il livello di competenza, di attenzione, anche la capacità di avere una propria autonomia rispetto alle parti che sono da un lato la difesa del trattenuto, dall'altro l'autorità amministrativa rappresentata da funzionari della questura, della prefettura, chiaro che questo è garantito maggiormente da magistrati, dal tribunale, che ha competenza sui trattenimenti per quanto riguarda i richiedenti asilo. Quindi questo è un altro aspetto su cui spesso abbiamo insistito e che torna prepotentemente alla ribalta dopo questo tragico evento. Voi nella manifestazione chiederete anche cose ben precise. Quali sono? Allora, l'idea è di sfruttare l'evento per chiedere un incontro al Ministero dell'Interno, al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispetto all'intervento sul CPR, questo, ma anche sugli altri, per la valutazione di quelle che sono violazioni che noi documenteremmo ovviamente, consistenti, violazioni di legge, come dicevo, e di qui la ragione per cui i giuristi devono scendere in piazza, dal nostro punto di vista, e anche un incontro con il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per la questione relativa alla competenza dei giudici di pace in materia che andrebbe superata a favore di quella del Tribunale, per un unico giudice specializzato in materia. Speriamo nell'adesione dei colleghi, che è fondamentale che scendano in piazza in toga insieme a noi.